come andiamo? Andiamo e andiamo. Che? Meglio così, sono contento. E tu come va? Al fresco, ma vediamo. A dove al fresco sono? C'è la vento, io ho preso freddo. Oggi non sono uscito per niente. Ho capito, no? Ho detto oggi ho preso ieri ho preso freddo e non sono uscito per nulla oggi, nessun posto. Manco la casa. Ieri invece sì, ma oggi tutta poggia a domo. C'era freddo? Ho preso freddo ieri sera, hai capito? Ho preso freddo ieri e quindi è tutta dolore stamattina, non riuscivo a alzarmi dal letto. Dolore ai fianchi, dolore alle gambe. Ma è il cambiamento del tempo, hai capito? Già lo so, già me ne sono accorto. Facevo le balle piene, 34 gradi, 35, poi arriva questo vento così, si abbassa la temperatura a 16-17 gradi, come stamattina alle 6. Umido e quindi si grippa. Ma già cambia di nuovo. Tu pensa che già da domani migliora. Allora, sì, domani 31, mercoledì 33, poi giovedì 29, poi venerdì 31, sabato 36 e domenica 33. Figurati. Forse fa poco c'è tutto agosto, fino a dopo il 20, senz'altro. Poi, bisogna vedere di che cosa moriamo dopo finito agosto, e cominciano a fare le piogge. Vabbè, la salva che si qua. Sì, ma quest'anno c'è un caldo tregua, caldo tutti i giorni, caldo. 35 gradi, 35, 40, 35, 40, 2 o 3 giorni di cosa, di fresco, poi dopo come prima. Alza di pianta non ho trovato più sentito. No, cosa andava a fare? Non c'era nessuno. Cosa andava a fare? Visto che Roberto è diventato a Sassari, Roberto Bandito, ieri, infatti ci ha detto, ma era ora che entravi. Ma con ieri c'era nessuno? No, io non ho sentito nessuno, ho detto, nulla. Ho capito. Io te l'ho acceso, vabbè, era un po' tardio, verso le 9, non c'era nessuno. Un motore sta diventando, un motore. Per me conviene prendere la parete, metterci in busta, dentro l'armadio e se la biglia in culo. Casino, è tutto pieno di apparati megametrici in vendita, 140, 440, gli aerei sono tutti in vendita, insomma. Che appaga, e di navi buoni. Allora spendo soldi, no. Quando l'unica cosa che ne prendo è il motorino, quello elettrico e basta, se la piglia in culo. Capito? Piglio il motorino elettrico e basta. Quell'UFO robot, come lo vuoi chiamare, prendo uno di quelli, non c'è bisogno di patente, né di assicurazione, non cazzo. Guarda, fammi la spesa e sono tranquillo, siamo in bello che l'estate. A meno che non mi piglio quello tappato, costa qualche cosa in più, tre ruote e se la piglia in culo. Certo. Vabbè, su questi baracchi non metto nessuno ormai. Vabbè, comunque c'è il tempo bello, se ne vanno chi si va in piscina, chi se ne va al mare, capito? Poi quando torna al freddo, voi vedete, dove ne entra. Non credo. Speriamo di sì, ma sarà molto difficile comunque. E la gente viene a casa a baracchino, ormai è abituata alla stanza di vicino, capito, se ne va per i locali la sera, dopo che diventa a casa, si cambia, va per i locali dove c'è il karaoke e si diverte fino alle 10 di notte, poi riprende e diventa a casa. Bevo la birra, due birre, quelle che sono, e passa l'ora. E allora, come ci si fa? Io sono un giorno io che vado al karaoke, il suo giorno ci andavo una volta a prendere l'acqua. Qui c'è il più fulco, ci andavo spesso, poi invece ho dato tutto e va fa culo. Più che altro andavo l'amico qui a divertirmi, bevo un paio di birre e poi alle 9 prendevo il tram e entravo a casa. Cenavo e poi andando. Al mare andando sta? No, mi piace il mare a me, no. Aspetta un attimo. Via. Stavo chiamando il cane. Via, cosa c'è? Chiuri, atti, chiuri, atti, chiuri. Saluta Pompone, saluta Pompone. Io la ciottumi, la mattina mi sveglia, mi lecca tutta la faccia, le mani, quando vuole che ti alzi per forza, appunto mi tira le lenzuola, il copiletto, quindi a voglia. Hai visto, quanti anni ha adesso? C'avevo 10 anni e qualcosa. Ho capito. L'altro giorno mi sono sentito con Stefano, è venuto anche a Sassari. Non l'ho visto io la verità, ci siamo sentiti al telefono e basta, ma la cosa veloce. Adesso fa sentire ogni tanto, da. Già sta, stavo volando adesso, stavo salta per 5 minuti, cerca te, cerca l'altro, cerca con l'altro, aspetta un attimo il telefono, e quindi parte tardi, aspetta un secondo. Thank you. Chi è? Chi è? Ciao, sono tu. Ui, come va? Eugenio. Tutto a posto, tutto a posto. Cazzo, ci andiamo bene. Ma sei appena rientrato, sì. Sono appena rientrato. E non sei fatto un'altra mattina alle 5? Stamattina, ma stamattina alle 4? Certo, alle 4... 12 giorni è fatto. 12, 15, 20, tu... La stagione estiva è un problema. Ci ammazza, ci crepa. Così è, se vuoi lavorare purtroppo è così. Non ti puoi manco lamentare, mi Amazon fanno peggio. Hai visto Amazon? Fanno 12-14 ore in fila come automi, non capisco come vaffanculo. Non ti hanno manco tempo di piacere un caffè, nulla. Non puoi fare altro che andare, capito? Sistemare le pacche e metterli da una parte e basta. Quindi appena arrivate per i sogni quei pacchi. Lo so. Roberto. Non ho sentito ancora Roberto Quadrato. Penso che entri verso le 7. Ma sta facendo sentire nessuno. No, per me non lo sento più nessuno io. Cosa? Ci vuole, non si faccia sentire. Sì? Ci vuole. Carlo Sarviero. Ah, grazie, ci vuole l'occhia. Non ho più sentito neanche io. Sì, ma poi non lo sento, mi piacerebbe di sentirlo a zio Claudio. Adesso sta zappando. Capito? E quindi impegnato, almeno fa qualcosa. Meglio così, va, meglio così, così ci stiamo occupando. Andare. Sarà messo che è fatto le galline, magari qualche pecorella per la bella la mattina fresco, un maialetto da ammazzare. E per me, perlomeno per Natale, almeno a posto. E non spende neanche una lira. E infine, al limite, se c'è le piante, se lo fa lui. Ma non è che ti posso portare il Galaxy? Così lo trovi. Quanto fa farlo funzionare? Capito? Quando vuoi, ti ho detto. Mi avvisi al baracchino, al telefono. Come vuoi tu, sali qui e così lo proviamo, grazie. Vabbè, te lo lascio con calma, te lo lascio proprio con calma. Quando vuoi, se vuoi salire adesso, lo sarai adesso, se ne voglia. Amico mio, adesso ce la faccio proprio. Tanto che faccio la voce, ce la metto sul divano. Se vuoi una mattina, devo fare 4. Figurati. Se vai a... Mi ricordi di me quando entravo dal vero, che avevamo messo le 5 e mezzo, le 7 erano. Riuscivo giusto a bermi un paio di birra a casa, dopo aver cenato, e mi coricavo nella sedia, mi coricavo. Poi alle 7 e mezzo del mattino in piedi, lì a portare brocchetta, a portare i cantoni. Ma prima non sentivo nulla, adesso cazzo si sente dolore adesso, il ginocchio a me. Ai ginocchi, alle gambe, ma sono fracassate per niente. Siamo nati poveri, bisogna lavorare. Ma tu sei in pensione? No, assolutamente pensione. Non ti ha pigliato mai pensione. Ho fatto 12 anni di lavoro, ma non ho bruciato. Che cosa altro che pensione? Ah, perché stava a pensione, ce l'hai. Sei giovane ancora. A 65 anni la pensione sociale. Ce ne vuole ancora, ce ne vuole. Altri, quanti sono? 65, quindi, altri 15 anni, se sono ancora vivo. Già passano. Già faccio anche quelli, ti preoccupare. E già passano, più passano e più il vecchio. Già sono dolore adesso da quando ho fatto questo vaccino. Mi ha crepato la braccia, non lo voglio proprio fare nulla, sai, devo dire stanco, stanchetta addosso, non lo voglio proprio, quando mi alzo, molle, molle, ha fatto il caldo, vabbè. Io faccio tutti e due, non ho fatto niente, vero, un po' il braccio indolenzito, l'ho già fatto la struttura, ma niente. Niente, l'ho lavorato tranquillamente, non mi ha fatto niente. No, no, a me già mi ha sagamato. Ha sfruttato quasi un mellatoi alle braccia. Ma dicevo, se ne vale manco un martello, figurati. Sotto dolori forti, capito? C'avevo tutte le vene infiammate, la bocca infiammata, le gengive specialmente, mal di denti, ma proprio preso male a me. Le gambe, infatti ho dovuto comprarmi la crema per le vene, capito? Per rinfrescarle. Ah, addirittura. Non è proprio il giorno, non ho fatto niente. Ho continuato a lavorare, sono fatto la mattina scorsa, sono sceso a lavorare tranquillamente. No, a me mi ha proprio fatto male. E anche c'è gente che è proprio, è stata una settimana dentro al letto, che non riusciva mai a alzarsi dal letto. Sono andato in malattia per un mese e mezzo, proprio le gambe molli, non si reggeva in piedi, non riusciva a mangiare, non c'aveva voglia di mangiare, tutte le gengive infiammate. E mi ha fatto un bel po' di roba. E l'unica cosa che sono andato bene è che non ho avuto mal di testa io, mal di testa, febbre. Siete si è pigliato la febbre a 40, 39, io almeno quella non l'ho passata. Guarda, intanto ci vuole la vaccina, bisogna farlo, se no è un problema. Bisogna farlo, se no è un problema. Va bene. Roberto! Allora oggi sta andando un po' di vento, c'è un po' di aria. Meno male, meno ieri e oggi. C'è un bel po' di vento, cioè, si sta bene. Vabbè, a parte che se sei suonato, come ho suonato io ieri, mi ha fregato subito a me. Tutta dolore, adesso che il movimento mi sono scaldato i muscoli, sto bene. Se sei suonato ormai ti prenda subito. Infatti è suonato, perché mi sono collegato un po' tanto in questa camera. Poi, come mi sono svegliato, ho sudato un po', c'è la finestra aperta e ho preso il freddo da una parte all'altra, c'è il vento più che altro. C'è un po' tipo. La corrente è maledetta. Infatti non sono uscito per niente oggi, non mi sono mosso da casa, sono qui buttato, ho usato mi guardo un po' di televisione, se no ho acceso il baracchino a ascoltare se c'è qualcuno. Io sono entrato giù qua, ma se lo accendo mi faccio una chiacchierata, sei tu, alla buona, venisci un altro. Roberto, Antonio, Natalino, doppio rum, la buona vera, Tino, finisci un buffio, ma è stato normale. Ma ce l'avete un pochettino di roba qua, ho venuto di suo canale e facciamo un poco di roba a vendere. Ma io mi sono comprato il Kindle, proprio mi piace, perché mi piace averlo. Mi piace avere sia il Kindle che il Galaxy, poi c'ho tutti e due, boh, vai, e va bene così, non compro altro. E c'è uno in vendita l'altro giorno, 140, lo stavano vendendo. Ma questo è nuovo, questo è perfetto, volete tutto riallineato, perfetto. Alla grande. Faccio bene, perché me lo tengo. Me lo tengo perché proprio mi piace da parecchio. Fai bene. L'altro te lo tiro di riserva, quello vecchio, potenzi, almeno ce li hai. Cos'è? Un altro che avevi di Chievo, mi sembra, che stavi vendendo. L'altro te lo tiro di perpizzi, ce fai prima. No, io di Chievo ho avuto solo questo, non ho avuto altri Chievo. Ma ecco, chi lo vuole, Olga, ci sia Turneco, che fosse interessato, ma... Non è frega più tanto, ce l'ho, mi piace qua, ma non penso di darlo comunque. No, io l'avevo dato, lì ce l'avevi, l'avevo piatto 150 euro l'ho preso. L'avevo riparato, l'ho sistemato, l'ho risanato e poi rivenduto 150 euro. Quanto l'ho pagato io l'ho dato immediatamente. Chi l'ha preso è rimasto contento, l'ha usato, era tranquillo. Antonio era parecchio, va benissimo, mi ha detto, non c'è nessun problema. Ha detto, sono contento per te, io ho detto. Ti ho dovuto accontentare. Io, siccome gli ho detto, mi servono soldi quel periodo di 150 euro, e pagavi, non adesso mi ricordo se il condominio cosa diavolo era. Allora ho chiesto a 25, io ho detto, lo vendiamo, ho detto, l'apparecchio. Ha fatto, fa come vuoi, mi ha detto. E così ho fatto. E poi, vabbè, l'unica cosa che mi è rimasta è con le scatolina e le... E l'857D, basta. E l'altro malattino. Ma poi c'è l'FM500S e quella omologata che ho comprato io. Non mi rimane altro. A voi, basta un altro di apparecchi. Ma io ho questi due, sono beh, poi ho questo che... Ho questo Midland che dovrò piazzare nel camper. Il Galaxy Uranus che devo riuscire a salire a Sassari e darlo a Gianni il Professa e mi voglio fare cambio con un Alan 38 con un portatile, mi serve un portatile. Ho capito, quello che mi hanno dato una bomba che mi hanno dato senza variare, c'ha lo stile lungo un metro e tutto bello caricato con la piastra, ma lunga un metro e dieci, posso mettere 20. Guarda la terrazzina, quello piccolo là. Ehi, ma i colini mi hanno dato, mi hanno regalato. Figurati. Quello sì che non lo intende. Piazzate nel fianco del camper. Quelle sì che pompano. Ma che macchina non le hai? Sì, ce l'hai anche tu quella lì. C'è la PDC 800 Minox. Nuova nuova. No, io sto cercando quella con la carica. Quella che ha la molla nello stilo, capito? Capito quale stai dicendo? Già ho capito, già. La molla nello stilo. E quella c'era un amico mio, ce l'aveva con le antenne. Poi è morto, adesso non so più niente, che c'è in mano tutto. Che c'è in mano tutto quello che c'era nel garage, nelle... Cioè Santa Maria, non lo so, non ci sono più sceso. Qualche giorno se capita magari che riesco a sapere chi ci hanno con la roba lì, te la butto con l'antenna. E così te la prendi. Sì, ciao già, buonasera. Vabbè, faccio prima ordinarmela da Amazon. Avanti il break. Buonasera a tutti, doppio room, dai. Ciao già, buonasera, hai sentito? E oggi il lunedì hai saputo di quell'incidente che è successo ieri, cosa se c'erano morti. Io ho visto cazzo quell'incidente, saranno a 8 ore, si di notte, verso mezzanotte, cazzo. Allucinante, due macchine tutte accartocciate. Una Panda e una... dei turisti non hanno bruciato lo stop. E la Panda l'ha preso in pieno. Tre feriti ci sono. Ma non penso sia in condizioni, non c'è un trauma facciale, gli altri lesioni così, no, non sono fatti morti. Manco mai, perché per come erano le macchine, chi sa quando era distrutta? Gli ha preso in pieno, quando avessi bene rispettato lo stop, gli ha preso in pieno. Però gli ha allucinato, vabbè, succedono queste cose. Non è che per caso è da vendere un'antenna di quelle che hanno l'attacco con la farfallina e hanno la carica nell'ostico, la molla, diciamo. No, oggi la stavo cercando anche io quell'antenna lì, ma non lo sono riuscito a trovarla. La volevo mettere anche io nella macchina mia, così, corta. Invece c'ho la Turbo 2001 io. Ma una macchina nuova? Cappa. Se c'è una macchina nuova, l'antenna così lunga. Vabbè, con la calamita e con la magnetica, quando voglio la tolgo, quando non la voglio la metto, cioè non c'è problema. Ah, ok. Ce l'ho con la magnetica, capito? Oggi non l'ho voluta bucare la macchina, ma la voleva bucare chi mi ha fatto l'impianto. Mi ha detto, guarda, non si vede nulla, non ti preoccupare, no, lascia stare, non ne bucano. Vabbè, ragazzi, vi devo lasciare, dai. Ci hanno suonato, ci sentiamo dopo, ciao. Ciao, ci sentiamo oggi. Avanti, Pompu. Ciao, oggi ci sentiamo, le prossime, stavi bene. Cioè, va bene, ora è un'antenna, tipo 2001, ma che messa magnetica, non c'è stazionale. Ce l'ho io qua, l'avevo comprata per utilizzarla con la macchina oppure a casa di Giovanna. Che funzionano benissimo come antenne, sono corte, vanno bene. Io ho avuto anche la mini turbo, ma due segnali in meno ti dà della. Le ho provate tutti e due una a fianco all'altra. Da due segnali in meno. Io la verità non ci ho mai fatto caso io. Non lo so. No, c'è questa parte avanza. Quando mi serve a capire che fanno in qualche posto, mi tiro la magnetica, il barattino e l'alimentazione sta andando. Tanto per dire. Quello è vero. Come sto uscendo? Che era un po' di tempo che non usavo l'apparato. 9:15, sì, dalle 5. Meglio, va bene, dai. Andà bene. Già va bene così. Interessante che si senta bene. Ah, quello sì. Il problema si senta bene. Come vi ho detto, se la piglia a Napoli. Ce l'ho, uso l'altro ancora, già ce n'è. Ne ho tanti da far girare, c'è uno che non lo sto più attaccando, è sempre fermo. Sì, ce l'avevo anch'io gli apparecchi così. Prima è stato un Necco, accendevo quello, poi dopo quello accendevo quell'altro, e alla fine mi sono girato in così, ho preso e quello che non c'è stato l'ho fatto fuori. L'altro l'ho prestato a mia sorella, almeno lo usavo per farlo girare con lineare. E io mi sono ritenuto l'FM500S che è questo, il cabinale 9 che c'ho sotto e l'omologato, basta. Come sono tenuto altro. Tranne che, vabbè, l'857B. Ma non è venuto quello lì? Cosa, l'857B? No, non l'ho venduto quello. Non mi ricordavo che lo stavi vendendo. E vabbè, io c'ho Ruiz, c'ho il Magno, c'ho il Cobra, c'ho la stazione in base. Ma quando non li usi lo sai fare, non li fai molto. Sono solo buttati dentro casa e basta. E l'ha preso così alla mare. C'è una carriera io qua, quello da 500 watt, che ce n'è uno in vendita, mi 200 euro in cambio di un baracchino. Cioè in pratica lui vuole un baracchino e l'ultima lineare. Il BV 2001, quello trasettorizzato, anzi 2002, quello trasettorizzato. Ho visto oggi. Un buon prezzo, il capo di un baracchino, una voglia. Dai un micro anche quelli, quello vecchio e l'ultima da quello. Il lineare. Quello lo utilizzi. Bisogna avere come va? Dice che nuovo, funziona bene, non ha nessun problema. Vuole un apparato, c'è scritto e basta. scritta. Io me l'avevo cruda, ce l'ho già, se me la bozza. Mi riempio la casa dei legnari, no? Ma che bastano quelli che c'ho? Tutti i cosi dicono che vanno bene, qui da viva, non cazzo, non funzionano. Come quel garage che è arrivato a me, che era difettoso, faceva il rumore di alternata, non gli hanno mai tutto pieno. Che poi bastava metterli l'alimentatore esterno, cazzo, e una persona l'ha preso in mano 100 volte, mi ha fatto spendere un bel di soldi e poi non è riuscito a aggiustarlo. C'era l'alternata, c'era senz'altro qualche cosa da cambiare, o ponte di iodi, il fatto dell'alternata è quello, non ce n'è altro, o il ponte di iodi o condensatore in perdita, dove c'è il circuito dell'alimentatore. E poi c'è anche il trasformatore che le alette che toccano e cose fa col rumore. Ah sì, quando scalda il trasformatore anche scalda con difetto, ma è molto difficile, la verità. Il trasformatore se lo fa, lo fa perché mentre è partito quel rumore, incomincia a fare e poi vibra anche la parecchia addirittura. E così faceva lì. E allora era il ponte di Rioli, non era il trasformatore. Perché l'ha fatto a me, io ce l'ho qui, l'ha inventato per mio. Adesso gli ho portato il ponte di Rioli l'altro giorno, io devo solamente installare e sono a posto. E c'ha più di 30 anni quello l'ha inventato per ciò io. Figurati. Ho fatto o il ponte di Rioli o il condensatore che ci sono dentro, che sono in perdita magari. Che sono vecchi, capito? Sono di quelli grossi, grossi, grossi. Ormai si usano quelli, neanche la metà sono. Vabbè, lo so, so che è così. Figurati. Uiuia. Oggi dopo non c'è neanche un cane in giro. E anche la te non si è sentito. No, non l'ho sentito, sinceramente. Aspetta che mi stanno chiamando al telefono. Ehi, però andavo con un muro, no, non arrivo. Calentava certo buttato, quindi forse di mettere mezzo lungo. Quindi bastava calentare solamente, e poi quando non mi va. Oggi è stupata, stupatamente, la situazione non è normale. Alessio, sì, attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Attenzione, canale 10, l'isola della Sardegna fa chiamata, si sintonizza l'ascolto, brecco, brecco. Hola, attenzione, canale 10, brecco, brecco, brecco. Andiamo, andiamo, yes.